Questa mattina, ve lo confesso, sono venuto in radio in automobile. Non che mi sia azzardato a violare il blocco del traffico di Onescampi, ma godo di una regolare deroga in quanto giornalista in servizio. Soffro per di più di qualche problema di salute che in questa stagione mi preclude l'uso della bicicletta e avrei anche qualche problemino nel usare i mezzi pubblici, anche se sul percorso ne esistesse qualcuno. Tuttavia, nelle precedenti giornate in cui blocchi di quel genere erano stati disposti, fosse l'iniziativa dovuta a pericolose impennate della quantità di inquinanti nell'aria o semplicemente la volontà di educare i cittadini alle gioie del trasporto collettivo, avevo sempre cercato di organizzarmi diversamente. Di ingegnarmi meglio che potevo fare a meno dei mezzi a motore, in ossequio al principio per cui nelle emergenze collettive ciascuno è tenuto a dare il suo contributo, pur scarso che sia. Ma questa volta, che volete che vi dica, non ce l'ho fatta. Ho chiesto alla nostra efficientissima segretaria di redazione il prescritto pezzo di carta, ho messo nel portafoglio il tesserino dell'ordine, che di solito lascio nel cassetto, ed eccomi qui. Intendiamoci, Non è stata una scelta facile, qualche rimorso lo provo, non è stata neanche una biura improvvisa. Nelle sospensioni domenicali del traffico privato non ho mai avuto, come voi tutti suppongo, una grandissima fiducia. Ho sempre saputo che si trattava di divieti dal valore affatto simbolico, che impedire l'uso dell'auto di domenica serve a pochissimo, che il problema sta a monte, nella preponderanza del riscaldamento a gasolio e nell'insufficienza della rete autofilotranviaria, visto che Milano, con tutte le aree di grande città che si dà in 50 anni, è riuscita a dotarsi di tre sole linee di metropolitana, estreminzite anche, e comunque chi elegge un sindaco che ha voluto a ogni costo i poteri di commissario straordinario al traffico e vi usa quasi solo per costruire dei nuovi parcheggi, per attirare cioè sempre più automobili in centro, e pazienza se bisogna fare un'ecatombe di alberi, chi fa ciò i suoi guai se li cerca, e non gli resta che consolarsi, come faceva Corriere ieri, e con la constatazione che il nostro concetto di salute oggi è diverso rispetto ai decenni scorsi, e comunque in città come Manila, Lima o New Delhi, l'inquinamento è 10 volte maggiore. Ma avevo sempre pensato che qualcosa è sempre meglio di niente e che anche da quelle discutibili, deboli iniziative un minimo vantaggio per tutti se ne poteva con un po' di buona volontà ricavare. Oggi no. Queste 6 ore 6 di blocco festivo in 2 turni, studiate in modo di recare il minor danno possibile ai negozianti che tengono aperti per i saldi, a non disturbare le sfilate della moda maschile, a non irritare i tifosi che devono andare alla partita e non so che altro, evidentemente decise da un'autorità riluttante a puro titolo di scarico di coscienza, non rappresentano soltanto l'ennesimo provvedimento farsa, non esprimono solo l'evidente intenzione di privilegiare gli interessi di qualche gruppo di pressione influente rispetto alla salute di tutti. E sono, se mi concedete il termine, qualcosa di più della solita presa per il culo. Il disagio senza contropartita che infliggono ai cittadini ha uno spiccato valore espiatorio, come se si trattasse di un sacrificio rituale offerto in cambio dell'autorizzazione a continuare a fare senza rimorsi ciò che si è fatto sempre. Accettarlo senza protestare, a questo punto, rasenta pericolosamente la complicità. E non statemi a dire che approfittare dei propri privilegi di categoria per eludere un divieto, per quanto inutile e ingiustificato esso sia, non rappresenta esattamente una forma di protesta. Lo so benissimo, in effetti, se solo avessi potuto me ne sarei ben guardato anche stavolta, come sempre, ma non ha neanche senso accettare una logica che tutto spinge a considerare ipocrita e nociva. Chi obbedisce senza fiatare ai divieti cretini fa del male anche a te. Digli di smettere.